Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Se il mondo corre e mi passa lo sgomento, passo lento ma violento. Noi camminiamo molto lentamente. Fuori dal mondo. Ciao, sono l'inventore del lento violento e me ne vento. L'estetica della gente che non pensa crede che la natura abbellisca la bellezza, oppure che la semplicità abbellisca la bellezza. Tutto ciò che è bello e nobile è sempre il risultato della ragione e della creatività umana. Non è un caso che la volgarità sia naturale, mentre la virtù sia artificiale, soprannaturale. Suoni e colori per bimbi e genitori. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Tratto dal saggio di Baudelaire, il pittore della vita moderna. Il male si fa senza sforzo, naturalmente. Il bene è sempre il prodotto di un'arte. Benvenuti nel mondo che non c'è. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Capire il cuore e la mente di una persona. Non guardate ciò che ha raggiunto, ma ciò a cui aspira.

tuoi sogni. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22. Gigi D'Agostino suona a Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci la mano. Info line 392 822 52 59. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, mica non sciolento. Alla faccia di chi ci vuole male. E colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Di perplessità. Mando la pubblicità. Sali in sella, è suonata la campanella. Il 18 dicembre del 1890, Londra apre la sua prima metropolitana. Stiamo attenti. Andiamo lenti. Sulla frequenza della benevolenza. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. La musica musica la la musica la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la peste la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la musica la la musica la la musica la Santo Stefano, lento, violento. Lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22. Dalle ore 22. Gigi D'Agostino suona Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. 2. 2. 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci la mano. Infoline 392-822-5259. Capito come? È il cammino del Gigi D'Agostino. La musica vendetta. Il 18 dicembre del 2004, la rivista Archaeologische Correspondenzblatt pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo. Di un flauto di 35.000 anni fa, costruito con una zanna d'avorio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Piscia sta radio, ti arriva in destro. Alle ore 18 suona il maestro. Se per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Te la prima volta, te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Capito come? Ovvio. M2O. Del giusto e non lo fa, è un codardo. Confucio. Ciao, sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Fammi una mixata, va. Non confondere mai il movimento con l'azione. Il movimento con l'azione. Ernest Hemingway. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Se tu sei uno che si abitua molto facilmente alle cose e poi dopo ne sei schiavo, stai ascoltando la frequenza sbagliata. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vai con la cassa. Venerdì 22 dicembre 2006 Gigi D'Agostino suona a Torino, discoteca Patio Club. We'll be right back.

solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo e quando ci stiriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse non capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato, perché chi ama non lo sa spiegare. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me l'amore vuol dire aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo, tutto questo, tutto questo, tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse non capirlo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Che soffiare dentro dal vento, niente c'è che manca al tuo strumento. Guarda invece noi, piangi per l'amore che si perde. Odiami se sei passata morte, grida se l'amore grida forte, che ti serve ormai. guarda invece noi. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Sulla frequenza della benevolenza M2O. Why am I Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Grazie.